Sera, Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. Eccoci qua, dopo Riccardo Celles, la seconda protagonista della serata è Giulia. Buonasera Giulia Millalta, buonasera Giulia. Buonasera. Come va? Bene? Bene, voi? Bene, bene, ottimamente. Noi abbiamo sentito, abbiamo ascoltato il tuo disco, è un bel disco indubbiamente. Parliamo di questo Giulia and the Dizzy Ness, che è il tuo gruppo. Come è nato, come è sviluppato il discorso? Fammi ricordare. Innanzitutto tu avevi un trio praticamente, un trio assieme a Giacomo Morandi e Alberto Tucci, e hai creato questo progetto. Sì. È stato un incontro un po' casuale fra appunto me e Giacomo Morandi, che è un chitarrista, arrangiatore, e Alberto Tucci, che in realtà è sempre stato molto, molto dentro alla musica elettronica, lavorava come DJ, quindi è nata questa idea all'inizio un po' così a casaccio, senza mettersi a suonare e mettere dei testi su dei loop elettronici, e poi da lì il discorso si è sviluppato ed è nato un disco. Io avevo già del materiale mio, perché comunque era già da tempo che scrivevo canzoni, e quindi abbiamo fuso le due cose e abbiamo creato questo disco. Io ho scritto nella presentazione, il disco si chiama After the Alpha Decade, e il loro disco di esordio, dove in maniera decisamente indovinata convergono, non so se sei d'accordo, le diverse chiavi di lettura dell'universo sonoro vostro, ovvero sia una bella dose di sperimentalismo, una melodia rarefatta e ricercata, e un pop di qualità. Cosa ne pensi, Giulia? Se lo dite voi... No, io l'ho sentito così, l'ho recepito in questa maniera. Sì, va bene, ognuno lo può recepire come vuole, nel senso, io non so che nome dare a quello che faccio, io faccio e tiro fuori le idee. Poi ovviamente a seconda della sensibilità di chi ascolta vengono fuori connotati diversi, no? Cioè, quindi, certamente. E va benissimo, perché non è che c'è una cosa, non c'è una definizione, non è una formula matematica, no? Per cui ognuno alla fine ci può anche sentire quello che vuole, magari può piacere per le melodie, può piacere perché c'è un suonino particolare, no? Certamente. Importante... Il discorso della matrice anglosassone è quello, però sì, cosa pensi? Sì, io comunque ho sempre, cioè quello è un po' il mondo da cui vengo, per cui... Siccome comunque le canzoni sono scritte da me, è chiaro che questo poi è emerso insomma nel disco. Un discorso importante, questo disco ha avuto una tournée promozionale, è andato negli Stati Uniti, tu hai suonato in alcuni locali newyorkesi. Sì, ho suonato a New York, ho suonato anche un paio di volte a Londra, e a New York recentemente questo inverno, a Londra... invece di un annetto fa, un paio di volte, e poi anche in radio sia nord europee che nordamericane, è arrivato anche in Australia tramite appunto alcune radio. Benissimo, noi iniziamo a presentare l'album dalla prima traccia, perché è significativa questo loop elettronico, questo sperimentalismo, questa psichedelia, tra virgolette, non so se sei d'accordo. Sì, mi fa piacere. Io ho recepito così, l'ho sentita così, attraverso la nostra redazione abbiamo deciso di mettere questa scheda, perché è un bel sentire all'inizio, da una prospettiva buona secondo me, fa capire che musica poi verrà svolta nel corso delle altre tracce. Ok. La sentiamo assieme allora. Bene. Ok. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. There's a green lake and a huge mountain around, so beautiful that seems fake, and the wind so loud. If you're lonesome and numb, you get lost and dumb. Bottom of the lake, there comes your face, and while it slightly disappears, the cover opens and reveals gold and frogs, gold and frogs. you've always chased me. Her brain, you never sees me awake. Call me your will-o'-the-wisp, like the hit playing tricks when you drive on your way, coasted by your firm beliefs, so wavering and stiff. You've always chased me, her brain, you never sees me awake. Call me your will-o'-the-wisp, like the hit playing tricks when you drive on your way, coasted by your firm beliefs, so wavering and stiff. Giulia, mi senti? C'è uno piccolo spot di 50 secondi, ok? Dopo questo pezzo. Tu stai sempre al microfono, eh? Non ti allontanare dal telefono. Ok, ok. Watching the lake without the image of your face, the water so pure and clear, it's telling new stories of hope about babies hungry and sage, about old men turning the page. Sono le 22 e 2 minuti. In occasione dei 400 anni della morte dei musicisti Giovanni Matteo Asola e Giovanni Croce, il Comitato Regionale per le Celebrazioni, la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia e la Regione del Veneto promuovono un ricco programma di attività a Venezia, Padova e Verona, con convegni, mostre, giornate di studio e concerti. 27 maggio, Venezia, concerto nella Basilica di San Marco, vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi. 29 maggio, Verona, Chiesa Cattedrale, messa cantata con musiche di Matteo Asola. Scopri il programma su www.fondazionelevi.it oppure telefona allo 041 786 777. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Giulia, ci sei? Eccomi. Benissimo, abbiamo sentito il brano d'apertura, sicuramente un brano con trend psichedelico, ma non del tutto psichedelico. Come l'avete inventato, l'avete creato questo pezzo? Se non me lo ricordo più è un problema. No, cioè, questo disco adesso ha già 2 anni. Sì, sì, è vero. Quindi io a volte faccio fatica. Comunque, beh, il testo è nato da... Diciamo il titolo, l'abbiamo ancora detto. Come? Il titolo del pezzo dobbiamo ancora dirlo. Ah, ok, diciamolo. Certo, dillo pure. Vanishing. Perfetto. Che vuol dire tipo dissolversi. Esattamente. Il testo è nato da un momento mio di, non direi proprio di meditazione, perché sennò sembro un guru himalayano, però... da un momento, diciamo, un po' particolare di meditazione, o comunque di lasciare un po' andare la mente e venire, vedere che cosa ne esce. Mm-hmm. E poi mi ricordo che poi com'è nata la cosa? Probabilmente c'era questo campione su cui Alberto stava lavorando e a me piacque l'idea e da lì insomma ci fu costruita la cosa, se non mi sbaglio. Cioè Alberto DJ praticamente. Come il DJ, esatto. Cioè che lui cura il loop, cioè queste colorazioni elettroniche, questi impasti, possiamo esatto. dire così. Sì, sì, sì. Decisamente. Quindi il disco è stato scritto, è stato stampato, è stato pubblicato circa 2 anni fa, però quello che ho letto io, c'è un disco pronto in arrivo oppure no, Giulia? Sì, sì, sì, io sto già lavorando a questo disco, cioè sto lavorando a questo disco che uscirà a ottobre. Infatti è anche per questo che mi fa piacere parlare di questo disco, ma mi fa anche un po' strano, perché in realtà la mia testa... Con la mente ci sei già nel prossimo, praticamente. Sì, esattamente. Appunto per ottobre, quindi siamo a fare un po'... insomma siamo sotto con i lavori, ecco. Certo, e come, dal vivo come lo presentate? Questi pezzi vecchi, quelli nuovi devono ancora venire alla luce, ma quelli vecchi come li presentate dal vivo? Ma guarda, io ultimamente sto girando molto da sola. Ah, ok. In una versione acustica, non per litigi né niente, anzi ci vogliamo tutti molto bene e ceniamo e pranziamo insieme, però per motivi vari di evoluzione personale, di vita eccetera, il prossimo disco non sarà con loro, il prossimo disco sarà Giulia Millanta e basta e sarà un disco interamente appunto realizzato da me, anche perché appunto l'evoluzione di questi 2 anni è stata poi quella mia di girare molto da sola, quindi io voce chitarra o al limite con un altro chitarrista che mi accompagna, quindi molto più acustico, molto più anche scarno se vogliamo. Ho capito. Adesso ritornando al disco di 2 anni fa con la band, con gli altri 2 personaggi, io ho scelto ancora un altro pezzo, si chiama Little Girl, che è una bella, posso dire un pop elettronico, divertente, accattivante, ben fatto secondo me, che prende subito. Ok. Lo sentiamo assieme, Little Girl. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blue eyes. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Giulia, ci sei? Eccomi. Benissimo, abbiamo sentito Little Girl, questa bella chitarra lisergica, come molto interessante. Giulia, com'è nato questo discorso? Te lo ricordi? Sempre se te lo ricordi. Ma dunque, all'inizio ci sono questi armonici. Tutto il pezzo è nato da lì, in realtà. Ho capito. Da questi armonici, che poi sono stati sviluppati nell'armonia del pezzo. E la chitarra la suonava Giacomo qua, o no? Le chitarre sono suonate da me e da Giacomo. Da te e da Giacomo, sì. E tra l'altro in questo pezzo c'è Mario Arcari, che ha suonato Una vita con De André, con certo. Spostati, ci tengo a dirlo perché è stato un gran regalo averlo nel disco. E insomma, una cosa importante, insomma, decisamente. Sì, va detto, perché è una persona incredibile. E e Alberto, che funzione aveva di mettere a posto tutti i suoni, di programmare i suoni? Ma sì, di programmare alcuni loop, anche se non in tutto il disco ci sono loop, ci sono alcuni pezzi che sono praticamente quasi acustici. Sì. Però oltre a programmare i loop, lui aveva il compito di curare il suono, quindi ci sono alcuni suoni che sembrano artificiali, invece sono suonati da strumenti veri, e sui quali lui ha fatto un lavoro di effetti e di creargli un ambiente particolare, in modo da dare un suono appunto specifico e definito. È bello, il suono viene fuori bene, si sente bene, prende decisamente, secondo il mio parere, quando io ho ascoltato il disco, quando Alberto, il nostro direttore artistico, me l'ha fatto sentire, è veramente un disco di grande valore musicalmente parlando, un sacco di cose molto interessanti collegate, un sacco di piccole cerniere che si aprivano, interessante a mio parere. Io l'ho sentito. Beh, grazie, mi fa molto piacere. Questo è stato un po', era il nostro obiettivo, quindi insomma che sia arrivato è una gran cosa. Benissimo, okay. Voi siete toscani, mi pare, vero? Sì. Benissimo. Sì. È facile programmare la vostra musica dalle vostre parti oppure no? Programmare nel senso... Cioè, suonare praticamente. A suonare. Ma... chi lo sa, no, è facile, insomma... Io adesso che sei in dimensione acustica da sola. Sì, sai, appunto, il fatto di suonare da sola o in duo è comunque molto più facile, facilita tante cose a livello di spostamenti, logistiche, eccetera. E suonare adesso si sa che è un momento un po' strano, un po' difficile forse. Però beh, poi sai, il fatto di suonare comunque musica propria è sempre difficile. No, non è difficile, più che altro è una concezione diversa, cioè io non potrei suonare tutte le settimane nello stesso locale per fare del sottofondo. Ho capito. Perché ho capito. Non avrebbe senso. Certo, io suono certo. In posti dove c'è della gente a sedere che mi ascolta. Certo. Di conseguenza non suono negli stessi posti, almeno non a distanza appunto di settimane o mesi, magari suono ogni anno, ogni sei mesi posso tornare nello stesso posto, ma insomma ci vuole un lasso di tempo perché se no non avrebbe senso, quindi giro un sacco, sono sempre in macchina e appunto... E programmi, cioè fai sentire i pezzi di questo disco oppure fai sentire solo pezzi nuovi adesso? No, un po' e un po'. Ah, un po' e un po'. E faccio parecchi dei pezzi di questo disco, poi via via, sai, anche perché uno scrive roba nuova e c'ha certo. voglia di provarla e ha anche bisogno di provarla poi per capire anche se e quanto funziona, per cui adesso... I miei concerti sono un po' un mix delle due cose, più magari un paio di cover interessanti che magari ho riarrangiato, che fanno parte un po' della mia storia. Quale cover sono, Giulia? Ma c'è un pezzo di Neil Young che faccio spesso, che è Don't Let It Bring You Down. Bellissimo. Un pezzo della mia infanzia che io ho riarrangiato, ho fatto un arrangiamento un po' stravolto, che è Paranoid di Black Sabbath sì. Come lo fai Paranoid Black Sabbath? È un po' strano, positivamente strano chiaramente. Sì, è beh, è una sorpresa, sarà nel prossimo disco. Ah, ok. Ho fatto un arrangiamento un po' stravolto, quindi si riconosce perfettamente il pezzo, ma uno lì per lì rimane una schiaffata. Ma secondo me fare una cover si dovrebbe far così, cioè prendere il pezzo e crearlo a proprio modo, a propria maniera. Sì. Se no facciamo un copia e incolla, non ha senso. Non... Esatto. Almeno. Poi faccio magari a volte un pezzo di Lou Reed fatto su con l'ukulele. Cioè, mi piace fare un po' di cose, rigirare un po', insomma, le carte in tavola. Ma l'esperienza positiva di questo disco l'ha ampliata adesso nelle tue versioni acustiche, versioni da sola, praticamente. Sì. Penso di sì. Decisamente. Andiamo a un altro pezzo, che è il terzo che ho scelto io, che è una ballata folk stavolta, Ghost. Io l'ho sentita così, perché il folk esiste in questo disco, c'è, viene fuori, sia pure in una certa dimensione, ma viene fuori. Non so se sei d'accordo, Giulia. Sì, no, io totalmente, anche perché il folk è il terreno sul quale io sono cresciuta fin da piccola. Quindi io mio padre mi insegnò a suonare un po' la chitarra e cantavamo insieme... quando io avevo 10 anni, per cui quello, cioè il folk è la mia origine, quindi volente o nolente in qualche modo poi doveva venire fuori per forza. Perfetto, la traccia numero 6 è Ghost da parte di Giulia and the Dizzy Nest. Blu Radio Sera. Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Sì, Giulia, ci sei? Ci sono. Perfetto, è un'eterea dimensione folk. Non so se un giornalista ha scritto questo e io sono d'accordo, un'eterea dimensione folk. Cosa dici? Penso di sì. Il folk c'è di sicuro, l'etereo pure. Sì, c'è. Mi confermo, il nostro Sergio mi conferma in regia che c'è, secondo lui, l'etereo. Benissimo. E questo pezzo come lo fai dal vivo? In versione acustica, questi giri che fai per trovare i locali, giri spesso in macchina, come hai detto prima. Beh, dunque le chitarre ovviamente fanno... Non ti ha seguito nessuno del vecchio, da Vetia Band praticamente? Ma sì, a volte suoniamo con Giacomo Morandi, il chitarrista. Sì, certo. E a volte suono anche con altri chitarristi, proprio per questioni anche di tempo, di disponibilità, di storie di vita. E a volte da sola, per cui ovviamente è, come dicevo prima, è tutto molto più essenziale, più scarno, si privilegia l'armonia e la melodia, insomma tutto il resto non si può sentire ovviamente se sono io da sola. Chiaramente. E il disco è già pronto, quello nuovo, mi dicevi, o quasi? È in lavorazione. È in lavorazione, hai già scritto tutti i pezzi praticamente? Sì, certo. Tutto... Ok. Tutto già scritto, quasi tutto, insomma, stiamo entrando in studio proprio in questi giorni, quindi ci siamo, ecco. E la produzione è la stessa, cioè siete autoprodotti oppure avevate un produttore? No, il primo disco no, non è autoprodotto, c'è Cavern Jet Records, che è una piccola etichetta di Firenze. Per questo invece no, non saremo più con quell'etichetta lì, non sarò, anche perché questo disco sono io da sola. E ancora non dico il nome perché non è ufficiale, non abbiamo ancora firmato certo. Niente, però insomma sarà un'altra etichetta con un'altra distribuzione. Un'altra distribuzione, un'altra strada da percorrere praticamente. Esatto, sì. Quindi però l'idea della dimensione acustica l'hai avuta con il tempo o avevi già pensato a fare cioè allontanarti leggermente da quel mondo là per portare a una dimensione prettamente da sola? No, guarda, in realtà la dimensione acustica è un ritorno alle origini, perché io i primi concerti che ho fatto li ho fatti da sola o al massimo in duo, comunque concerti acustici, folk e dintorni. Questo disco è stata una bella sperimentazione, sì, certo. Una bella divagazione, è stato comunque anche poi molto divertente farlo, un po' fuori dal mio mondo consueto. Quindi era una prova che è uscita bene e poi hai deciso di ritornare sul sentiero solito. Ma sì, anche perché per quanto il disco mi continui a piacere, sì. Sono contenta appunto di quello che abbiamo fatto, la mia adesso sento proprio il bisogno di andare in giro in modo anche molto più, come dire, molto più così, sì, liberando le tue idee nuove, insomma, praticamente. Sì. Anche se non c'era nessuna costrizione, penso, con gli altri due tuoi compagni. No, minimamente, anzi è stato la cosa che è stata molto bella di quel disco è che ognuno di noi ha aiutato gli altri a esprimersi meglio, secondo me. Chiaramente, è stato sì. Proprio, anche perché appunto ripeto, ci vogliamo bene, siamo amici, per cui è stato proprio una ricerca insieme. Sì, è stato un episodio della ricerca del percorso musicale che adesso approvi in un altro senso, in un'altra maniera. Sì, so. Anche perché appunto mi piace molto l'idea di andare in giro proprio in maniera molto così anche scarna, voce e chitarra, mi piace questo adesso, ne ho bisogno, mi piace l'essenzialità della cosa. Comunque con Giacomo ad esempio stiamo ancora lavorando perché lui comunque mi dà una mano per gli arrangiamenti, quindi non è sparito, semplicemente il prossimo disco avrà proprio un connotato molto più di concerto live. Ho capito. Che disco da studio. Benissimo. E il disco precedente, quindi il primo disco di Giulia si chiamava After the Alpha Decay. Il nuovo non si sa, non avrà ancora il titolo, verrà pubblicato a ottobre. E, però per concludere la nostra cavalcata, il nostro percorso di questa serata, dovresti scegliere un altro pezzo per concludere la nostra intervista, Giulia, a tuo piacimento. Dunque, fammi pensare, cavolo, questa è una domanda difficile. Non so, io lo trovo molto bello Silent and Proud, non so se sei d'accordo. Sì, tra l'altro quello è stato poi il singolo, il pezzo che ha girato maggiormente nelle radio, quindi sì, io sono molto affezionata a quel pezzo. Tra l'altro, una cosa che mi fa piacere dire di questo disco è che ogni pezzo di questo disco è stato scritto in posti diversi del non del mondo, però c'è un pezzo che è stato scritto in Francia, uno in Spagna. Silent and Proud è stato scritto in aereo da me, un altro è stato scritto sulla Costa Brava, un altro sul raccordo a Firenze Sud. però è proprio un disco scritto in giro. Benissimo. Sì. Dimmi, l'ultima cosa, se vuoi ricordare, se hai un sito, se qualcosa, certo, un Facebook. Certo, io mi chiamo Giulia Millanta, quindi anche semplicemente digitando su Google Giulia Millanta viene fuori il MySpace, Reverb Nation, che è un altro sito. Fondamentalmente questi due, non ho un sito ufficiale perché tanto si fa benissimo con questi altri due. Certo. Mi trovate su YouTube... in giro nel web, insomma. Benissimo, allora grazie per la conversazione, aspettiamo il tuo nuovo album da solista, arriverà ad ottobre, però può darsi che tu faccia qualche giro anche quindi dalle nostre parti, non si sa mai. Beh, spero di sì, guarda, ben volentieri. Grazie allora Giulia, Silent and Proud da After the Half Decade, di Giulia and the Dizzy Ness. Grazie e buonasera a tutti. Grazie da Giulia e da tutti. Voi. Ciao. Ciao. Blu Radio Sera. Like homo sapiens.